punti, non gliene frega niente di essere popolare o impopolare, perché non si dovrà candidare mai. Quindi di conseguenza deve far quadrare i conti. La buon contabile dice, servono soldi, li togliamo. Anche l'ultima, come si dice, se non sbaglio, a livello di conti correnti ha cercato di tirare fuori per ogni 3.000 euro 5 euro da ogni conto di ciascuno di noi. Questa è una cosa gravissima, a livello coatto poi. Quanto tempo possiamo durare noi persone che diamo il corso tutti i giorni? Quanto possiamo durare? Cioè a me mancavano 5 anni andare in pensione e devo lavorare altri 13 anni. Cioè devo arrivare a 43 anni di contributi. A 43 anni di contributi devo arrivare io, che ne ho 51. Cazzo, ma stiamo scherzando davvero. Cioè non ci arriverò mai, perché io crepo prima, e lo so che crepo prima, a questi di me li ho crepo prima, perché già non lavoro al diritto. Ci sono mille problemi che l'azienda non ti può risolvere perché non c'ha denaro, la regione che non interviene, i fondi di investimento che c'erano sono stati tutti consumati. Da parte di chi sono stati consumati? Da parte dei dirigenti, da parte delle forze politiche, da parte di persone che non fanno un cazzo la mattina e la sera e che sono seduti a Cagliari in poltrona. Mentre noi, dico noi in generale, che lavoriamo tutto il giorno spaccandoci la palle, percepisci uno stipendio di poco più di 1.000 euro al mese, in più ti tassano la casa, ok? Hanno aumentato anche la tassa di concessione della nettezza urbana, capito? Che andrà poi ad accumulare tutto assieme all'ICI, quindi cioè rendiamoci conto dove dobbiamo andare. Io mi sono già comprato la parrucca, le calze a rete, andrò a farmi depilare, la notte vado a fare marchette per poter campare. Sì, ma la cosa più triste è anche l'IVA, non si è visto, da quanto tempo è che non alzavano l'IVA? Nel giro di pochi mesi è salita di un punto percentuale e adesso nel giro di pochi giorni salirà di altri due. Questa è la cosa vergognosa, ce la ritroveremo su tutto quello che compriamo, capito? Oh signori, io non vorrei fare l'uccello del malaugurio, anzi io mi auguro che tutto vada per il meglio, che si risolva per il meglio, però signori miei, il bello deve ancora arrivare. Vabbè, questo qua è da imputare, ti ripeto, a tutte le passate amministrazioni, da Berlusconi a Prodi, perché non è solo Berlusconi, assolutamente, non ci credo, è impossibile che abbia fatto tutti questi anni in così poco tempo, però anche quelle di sinistra ne hanno fatto davvero di tutti i colori. Se mi è consentito, volevo dire una cosa. Noi abbiamo una macchina amministrativa, amministrativa dallo Stato in genere, ma dallo Stato quindi attraverso poi tutte le sue amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, che ha un costo in termini di retributivi a testa che non ci possiamo permettere. Mediamente è tre volte tanto la retribuzione di ognuna di queste teste, mediamente è tre volte tanto quella del referente a livello europeo, ed è un costo che noi non possiamo sostenere, quindi da lì più tutto ciò che è il carico da 11 dei mille altri balzelli retributivi che hanno questi signori, è un costo che noi non possiamo sostenere. Lì spero che riescano ad intervenire. Oh Salvatore, scusa, una piccola domanda, potrebbe essere una domanda anche a livello di ignoranza, ma mi spieghi un attimino. Allora, poniamo il caso, tu sei un imprenditore, devi mandare avanti un'impresa, ok? Hai 10 dipendenti, poi che ne abbi 10, 50 come 100, di questi dipendenti tu logicamente devi ottenere dei risultati diciamo logicamente per poter pagare questi dipendenti e poi quant'altro per poter mandare avanti l'impresa. Se in questi 10, poniamo 10, tu ne hai per dire 2 o 3, che ti stanno lì a grattarsi la faccia dalla prima di aprire l'altra frequenza. Fai, prendi le tue precauzioni, però questi 10 sono di quelli che ti hanno buttato dentro, a calci nel culo, o col classico pranzo, o con le classiche ferie invernali o così via, e ti trovi con le spalle al muro, cosa fai? Questo è dal punto di vista dell'imprenditore. Però io non facevo riferimento a quello, facevo riferimento al costo della macchina burocratica. Scusa un attimo che hanno suonato il citofono. Allora, mi scusate che sono arrivate le pizze, che facciamo carica. Ci sentiamo più tardi. Ok, ciao Salvatore, buona carica, buona pizzata. Scusatemi di nuovo per essere andato in corretti così velocemente. Ciao, a dopo. Sì, un secondo, ragazzi. Attenzione, 10. Attenzione, 10 per una prova. Avanti, Fabrizio, buonasera. Buonasera. Stavo contando un po', adesso devo andare a caricare le batterie, so che mi sono messo a farlo 10 minuti, meno male, cazzo, mi dicevo, ti ricordo ieri ci mi stavano dando problemi la radio, ho trovato il difetto veloce, se pensavo di, ero già disperato, ma mi stavo mettendo il cuore in pace, ma lo sta andando, sì. Ma che cosa aveva? Niente, usciva da zero con picchi di 10 watt o di 5, 6 watt, 7 watt massimi, non più di tanto la radio. E però da così ieri oggi l'avrei fatto. Allora, dopo che tornavo c'è lo schema elettrico, perché la credo, ho usato un occhiatino ed era meno male, solamente un cavettino di collegamento che porta da una schiena all'altra ossidato. Affermativo anche da questa parte, Fabri, 9,60 inchiodato. Ho avuto fortuna a volte. Ora, con l'occhiatina più o meno dove poteva essere. Ho aperto, ho messo il dito sulla cappotto. Ora, un connettorino a due fogli, non so come ha fatto, perché si era trovato un po' di ossido verde, capito? E vai. E va bene, era proprio la fesseria. No, facciamo che ti do uno spray particolare per pulire i circuiti elettrici, se ti dovesse interessare. No, ce l'ho quello lì, siccome ce l'ho in garage, non qua, allora era distorsionato, ho messo un boccettino, puntino di svitol giusto per lubrificarlo e pulirlo, e l'ho pulito, anche era un leggero ossido, non so come ha fatto a formarsi. Sì, ce l'ho quello per contatti, ma dovevo giusto, era proprio quello. Non so dove lo tiro, pulisce, glielo rifatto, ma comunque era una fesseria, molte volte. Allora, quel cavo che corre su tutte le schede se le collega attraverso quel connettore a spinotto? No, quello sopra la scheda dove c'è il primo oscillatore, lì ci saranno una ventina di connettori, capite? Lì c'era, se vuoi, era proprio quello praticamente che gli dava. Invece sì, che se ti guardi lo schermo c'era un po' di lì e poi con lì doveva essere qualche problema, se no non l'avrei nemmeno. Ho tolto il coperchio, l'ho portato proprio in quella zona e uno di quei paventi l'ho beccato subito. Ho avuto anche fortuna, molta fortuna. Oh, ci sei? Per me che vado a mangiare, ci sentiamo dopo. Vabbè. Buonasera. Buonasera, Bombolo, ti lascio in compagnia, dovrebbe essere Sigurde e Gianni, ti lascio in compagnia perché io sto chiudendo che devo fare carica batteria, che stavo provando la radio che avevo un problemino che probabilmente ho risolto, va. Ci sentiamo dopo che mangio, più tardi. Aspetta Fabri, no, stavo cambiando un attimino apparato, perché per vedere come ti ascoltavo su questo, siccome con l'altro basta che stacchi l'antenna e ti sento lo stesso anche senza antenna, allora non riuscivo ad attaccare lo spin-off del PL nella fretta, mi stava scivolando nelle mani, capito? Dai, se stai andando a fare carica batteria ci sentiamo più tardi. Ok. Chi è che è rimasto? Mi sembra Mombo, mi ha detto. Sì, appena entrato, io niente, giusto, è andata molto bene la cosa, ho girato avanti e riprendo la stavo, sto chiudendo, dai. Ciao Bombo, ben sentito, ciao Fabrizio, buona carica batteria e ci ascoltiamo dopo se coincide. Avanti chi è rimasto in ruota sul 10? Mi fa piacere, così sono rimasto da solo, il canale è mio. Gaba gaba. Oh, apro ginocchi. Alla comuna. Aspetta un attimo che sto riavvitando bene PL. Antonio, no, pensavo te ne stessi andando, Antonio. Perdonami, pensavo stessi facendo radioascolto o che fossi addirittura andato in QRT. Mi è sembrato di sentire un'altra persona, avanti l'altro amico. No, stavo facendo una battuta a te. Ciao, Groppo, mi sentivo. Vabbè, dai, Antonio, dai, ce la risentiamo da un altro momento. Ok, Antonio. E gli Gianni? E beh, ma come stanno andando le giornate? In che senso? No, nel senso, ma ce n'è gente che sta comprando o è sempre aria bassa? No, stiamo lavorando un bel lasciando offerte adesso. Aspetta un attimino che non so se ho stazionario, ecco, dammi un controllo, come sto uscendo, bene? 1, 2, 3, 1, 2, 3, perché c'ho il PL un attimino molle. Non vorrei che mi stesse staccando, capito? Sì, quasi 9.30. Quindi segnale classico, solito? Sì. Va bene così, allora. Tutto bene, Gianni? Ah sì, grazie a Dio, un po' stanco, ma va tutto bene. Aspetta un attimino che rimetto l'altro di apparato, un attimo. Sì, se non sbaglio aveva già fatto dei calendari nel calendario esattamente 3 o 4 anni fa, perché aveva partecipato allo stesso un'altra mia amica e aveva vinto tutte quante con ognuna con un abito sardo diverso, mentre invece questa qua che tema stava ha scelto? Che cosa ha scelto? Come era Italia? L'Edera l'aveva fatto. L'Edera. L'Edera secca. Ah, erano dei dipinti normali, cioè dei quadri normali, ma le attinte quante erano le ragazze? Cinque ragazze. Allora, il lavoro che aveva fatto la volta scorsa era, ne aveva fatto 12, una per ogni mese, e gli aveva dato a ogni ragazza gli aveva tinto addosso l'abito sardo, un abito sardo diverso, capito? Venuto un bel servizio. Non lo dite su Facebook, insomma. Su Facebook un paio di messi l'aria, io non ci sono più su Facebook. Non è lo guardo stasera stesso, dai, intanto sto andando un attimino dall'altro QTH e ci risentiamo da lì, dai. Quanto è durata l'esposizione? Sì, hanno iniziato Antonio, alle 6:30. Hanno finito verso le 8:30, anche prima. Le ha messe Tonino Alfonso comunque le foto su Facebook che mi stai dicendo, no, le ha messe l'aria, le ha messe direttamente lui di tutte le ragazze. Capo. Adesso come rientra a casa le guardo. Io volevo, ciao Anna, a proposito, scusami, è ben sentita, ben ascoltata finalmente dopo un po' di tempo. Dovevo giusto scendere stasera a Cagliari perché dovevo fare un altro servizio fotografico, mi sta riprendendo questa cosa e infatti è meglio che smetta. Ehi, saluto. Ciao a tu. Cosa che smetta? È bellissimo quello che fa per l'aria, è bellissimo. Eppure adesso vabbè, tutte queste organizzazioni, queste cose, non l'aveva fatto anche lei, non l'aveva fatto anche. No, non l'ha fatto anche. Non l'ha fatto anche. Qual era l'altro che l'ha fatto prima di questo? Ah no, ma l'ha fatto nel suo studio, diciamo. Ah. Si era fatto. Nello studio. L'ha fatto dal manager, farlo vedere al manager, capito? E quindi niente, insomma. Adesso spondiamo anche nel mondo della moda. Facciamo conoscere anche Dantena 1, da quello Stefano di Franco, credo che la chiama quando c'è qualcosa. Adesso spondiamo anche nel mondo della moda, Otto, poi con il parapetto nuovo, stiamo andando meglio. Ma ascolta, guarda che gli ho spedito un link di un sito dove ci sono tutti i casting che devono fare anche qua in Sardegna, quelli della Mediaset. Quel servizio che abbiamo fatto noi realmente fatto buono, è come è solito che sia, a seguito di un numero ridotto e di una location, cioè di un posto poco adatto. È normale che le foto buone possano essere 5, 6, 10, che era quello che ci eravamo predisposti, che sono foto esclusivamente di presentazione. E quel sito lì, che lo guardi bene, perché ci sono parecchi casting molto interessanti, fra l'altro di due film che devono girare qua in Sardegna, di cui uno era quello di Pieraccioni, e credo che sia già passato, che stava cercando appunto delle ragazze per fare la comparsa, e c'era anche qualcosa forse di Aldo, Giovanni e Giacomo che dovevano fare qua. Poi ci sono un paio di trasmissioni in Mediaset dove stavano cercando pubblico e danno 70 euro netti al giorno, e dopodiché c'era qualche altra trasmissione che devono iniziare e qualche documentario che devono fare qua in Sardegna, che gli dia uno sguardo. Sì. Tanto aveva già controllato, però non è riuscito a collegarsi su quel sito, infatti ha preso, mi sa che ha preso. Ha preso degli appunti che gli hai mandato tu. Ma infatti ho detto chiama Antonio, doveva chiamare poi si è inceppato il telefono, infatti si era comprato nuovo. Ci ha preso il Samsung, quindi il Galaxy, quello lì. E l'altro l'ha dato a me, non ci capisco un accidente, che ho iPhone 4, ma non aggregare su telefono. E niente, per dirti che tu la chiamare adesso stasera quando rientro al lavoro, te lo ricordo così, ti faccio chiamare e glielo spieghi tu bene. No, ho fatto un bel servizio lì da a Sassari, veramente bello, erano 5 ragazzi, è uscita una bellissima cosa, poi ti dico, appunto, te l'ho già detto poc'anzi, ma adesso si sente anche più tranquilla per quella questione là e quindi insomma più motivata eccetera, si sta buttando, poi non è che posso dire diversamente perché tu ci hai fatto il servizio, quindi sai di cosa sto parlando. È eccezionale veramente, è molto è molto bella in quelle foto, veramente sono bellissime quelle foto. No, ce ne sono una decina che sono davvero ben fatte nel senso che la bravura del fotografo sta esclusivamente, non dico di essere bravo assolutamente, lungi da me dirlo, è che diciamo che c'era una base ottima che era la modella, però ti sto dicendo realmente di riuscire a bruciare l'attimo, cioè devi riuscire a capire quando scattare. E questo lo si ottiene o facendo delle foto statiche, o facendo ovviamente in posa la persona, oppure delle foto dinamiche dove scatti un numero al pari di quando butti il palamito, butti 200 ami, almeno a 3 o 4 si attacca il pesce, e lì è lo stesso, scatti 200 foto e dopodiché almeno 3 o 4 vanno bene, più foto vanno bene, più c'è la bravura della modella e allo stesso tempo quella del fotografo, ma che è secondaria poi alla fine. E ce ne sono, guarda, almeno 5 o 6 che vanno davvero molto, molto, molto, molto bene. Ti ripeto, possono essere sfruttate, nel senso sfruttate parte dal presupposto che poi hanno 2000 difetti, dovevano essere corrette dal punto di vista di luce e tutt'altro. Però possono essere già delle foto con cui potersi presentare, soprattutto ce n'è una che è quella del profilo che avevamo scelto insieme, è ottima, quella lì è un'ottima foto di presentazione. Chiaramente poi chiunque gli potrà dire o comunque fare degli appunti su come sono state fatte le foto, però con i mezzi che avevamo diciamo che abbiamo raggiunto il top. Per quello che stai dicendo, assolutamente, io credo che ogni donna abbia bisogno, cioè abbia diritto alla propria bellezza, quindi qualsiasi cosa faccia per essere, tra virgolette, più sicura è cosa ben fatta. Infatti. Adesso comunque qualcosa si sta muovendo, ti ripeto, ti faccio chiamare perché ho avuto ultimamente anche dei contatti da fuori. Sicuramente sono quelle direttive che gli avevi dato tu, e quindi insomma è migliore ne parli con te al telefono e non qua, però è venuta veramente una bellissima cosa quella, e poi insomma tutto i contatti e le cose che sono già state avviate, tutto qua. Vabbè, in caso contrario io c'ho l'altra sempre accesa, se coincide ci sentiamo anche dopo con Fabrizio. Ciao anche a Gianni, buonasera, e ciao a tutti quelli che sono in ascolto. Vado a mangiare un boccone tu, non so se tu hai già cenato, vado a mangiare un boccone e poi sono veramente qua in radio, ok? Ma riprendo dalla macchina, buona carica batteria a te Anna. Ci sentiamo al limite più tardi. Per Gianni, se rimane in frequenza, innanzitutto complimenti per la voce della figlia, che ho sentito essere molto brava, da quel poco che si è sentito adesso qua. Riprendo un attimino dalla macchina, dalla BM che mi sto trasferendo da un QTH all'altro. Ok Anto, ti saluto anche Anna. Ciao Anto. Saluto anche a Chiara, anche da parte di Anna. E ci sentiamo dopo, ok? KK dopo. Attenzione Gianni. Ehi, ciao Flavio, anche a te. Come sta qua? È una cosa suite, è una cosa. Flavio, c'è una cosa su cosa, un parto in primo piano qua. Una cosa allucinante. Poi, mamma mia, che sei andato quasi male. Baruga posso dire. Fai una cosa allora, prova a mettere questo, autopsia di una donna. Allora che vedi che cos'è una autopsia, cosa vuol dire avere stomaco? Sì, io ne ho stomaco, ho visto altro che autopsia giù. Non ti rendi conto che quello che ho visto, ma ho visto anche gente tagliata in due, eccetera, eccetera. Non è cosa bella da vedere. Allora sei andato a vedere gli spettacoli di Silva, la donna tagliata in due. Ho visto una silica che ha volato nella strada di Alghero con tre ragazzi dentro. Sono tutti e tre morti. Sei grosso, sto scherzando, ci mancherebbe. Purtroppo chi fa quel tipo di volontariato lì che fai tu? Scusa un attimino che ho troppa potenza, che si è scaldata adesso. Chi fa quel tipo di volontariato è normale che veda queste cose. E ci vuole stomaco, sicuramente per qualche notte te le sei anche sognato, dai. Sì, quella notte lì è stata tragica perché non ho fatto movimentata veramente. Siamo usciti in pericolo. Ma per l'uscita a casa la macchina, come ho sbalzato a guardare lì, mi ha detto quello che c'era dietro, che ha visto volando i pizzi. Volando proprio. Si è fatta tutta a pizzi. E sono caduti nel burrone, siamo usciti con le corde. Non sono cose belle, assolutamente non sono cose belle, ma poi qua non entriamo nei particolari, la cosa brutta è per chi deve fare il riconoscimento, perché poi alla fine chiamano uno dei parenti a riconoscere la persona, che stenta anche a riconoscerla, perché immaginati come la trova, sicuramente deve essere una scena di una tragicità unica. Beh già, dammi 5 minuti, non so se hai fatto carica batterie, io sto esclusivamente scendendo giù prendendo la macchina e mi accompagni all'altro QTH se rimani. Comunque il ragazzo ha vinto il primo premio di DJ al triciclo, c'era la gara di DJ e ha vinto lui, ha vinto una console. Ma da poco infatti ho visto, stavano facendo i concerti anche al coso, come si chiama, all'industriale, hanno fatto un concerto tipo una settimana o 10 giorni fa. No, oh, questo qui era proprio, cioè loro hanno presentato una canzone fatta da loro, le musiche, le parole e la canzone la cantava Manuel e lui metteva le musiche, ragazzi. E si sono complimentati tutti, è piaciuto a tutti, l'hanno già fatta registrata la registrazione, ma è bella, l'ho sentita anche io. Certo, dopo quando rientro a casa mi dai il link e voglio vederla, dai. Sto scendendo, stacco un attimo, ciao ciao. E ciao ciao. Io non so dove è, cacchio beccarla, aspetta, te lo dico lì a vederli, così te la fa sentire. Mi ha tolto le cuffie. invece va bene, ma ce ne sono adesso che vanno bene, sono dritte senza radiali, radiali che vanno bene. Non lo so, io quello che c'ho io è attaccato alla stazione di quelli grandi. Quello smetto piccolo ti serve. Io ce ne ho uno piccolo, ma non è infilabile, lo stesso, è piccolino di quelli da macchina. Quanto ti dà l'ospedale? Tre? Tre? Beh, bisogna talarla. Io se vuoi te l'ho presto, ma non è che ti possa garantire che sia perfetto, è di quelli piccolini che ho io, l'altro è un bel grande, la stazione, quello non lo tolgo perché dovrei togliere tutto l'impianto elettrico, le luci e tutto quanto. Però l'altro, quello che ho, se vuoi te l'ho presto, ma non ti garantisco nulla, perché non ho smesso di quelli che costano 32 euro, roba del genere. Ci ha sempre misurato bene, non è che, però è di quelli piccoli, dai. Paga, quando metti in macchina domani quando torno da lavoro te lo passo. No, negativo, non c'è nessun problema. Ma si sente che è normale. No, già va bene, prova a modulare che ti lo segnalo. Sì, non va spaccato. Attenzione Gianni. Avanti Grotta. Ecco, ma sono rientrato. Sì, ce ne abbiamo uno nuovo, c'è un vecchio CB che è rientrato. E Mario Babacci, ora lo sta modulando. Fate dolce. Un arringo, non so chi faccio, 30 euro, un arringo, ci ho una bomba da lì. Perché quelli sta arrivando veramente basso. sì, avanti. Giustamente l'ha fatta chiara. Chi c'era di quella di leva delta, avanti. Tu capi per? No, sei basso lui. Sto capretto. Giù la vita. No, vabbè. Tanto se attacco l'altro non cambia niente, è solo il baracchino. Oh, vedi un po' lui. Non aumenta, fa qualcosa. La radio, il segnale può andare, ma la radio è bassa. Luca, attenzione Luca. Chiello. Sì, tu. Te la fatta chiana. Sei la fatta bianca. Zitto, farà la lista. Tanto, ma... Vabbè, guarda quella latte. E dopo, sì. Non mi ricordi tu. Non mi porti più, no. Tanto, ma... Una questione di Tina, Vediamo, ma ti sente Luca Flipper a te? Credo di sì. Attenzione, Luca Flipper, attenzione il Flipper. Cambio, cambio. Attenzione. Di che cosa? Che si è aggiustato la stazione. Sì, anche perché... Quando dico lì... per dimenticare, meno male che... Meno male che ancora qualcosa riusciamo ad avere un po' di culo. È andata bene, ma tutte quelle cose aperto, cioè non dire alla prima, ho avuto una fortuna incredibile. Ho detto, vabbè, avevo più o meno visto che poteva essere, però cazzo, ho messo il vestito lì ed era troppo lì. Poi ho detto, normale non era nemmeno il circuito, quindi dovevo rimandarne tutto quanto per rivolgere le salature, era proprio un cavolo di connettorino proprio sulle del verde dell'ossidazione. Roger, capita. E quello è proprio toccandolomi. Di solito quelle cose si ossidano per questo motivo, perché hanno un protettivo. Strano che si sia ossidato. È molto strano, anche perché non è la moto che l'ho smontata con la... Sì, con la schiena, quindi io... No, quella non l'ho smontata, la verità. Quindi proprio con la schiena non l'ho smontata, invece. Strano. Quindi era proprio quella che non ho toccato. Una delle tre, delle due che ho toccato, quella è l'unica che non ho toccato. Ed è quella lì che ha dato problemi. A volte sono tutte e tre le ho conosciute. Roger, ma il flipper perché sta uscendo così basso? Come mai? Il flipper perché non ha antenna, c'è un'antenna autocostruita. Antenna autocostruita? Come mai? Ma non è un vecchio CB Luca Flipper? Sì, però non vuole proprio più fare antenna. Ma no, vabbè, avrà le sue ragioni perché lo sta facendo, dai. Eh sì, proprio così. Ma non ci va bene Luca, Luca! Luca! Bucarie, Borgia. Ehi, ma mi dovevi dire qualcosa, no? No, negativo, no, nulla. Nulla, ma siamo a giga, mamma mia. Ma di testa. Vabbè. No, niente, questo malacchino come va? Bene. Benissimo, mi sembrava il K questo. Comunque, ma di testa, guarda che è questione di corrente, fra un'orecchia e l'altra. No, questa è la zambucca, ammazzati di varia. Quando c'è una stanza vuota, capito? Che fa corrente fra una finestra e l'altra. Ehi, Luca! Più alto, io sei più alto. Gran radio, prova. No, io già lo sento, però ovviamente la radio è quella che è bassa la radio, è basso il segnale, lo sento, ma è bassino, ma lì dovrebbe arrivare più forte. Sei forte a fondo scala quasi. No, ma tu immaginati che sono nel curvone di via, come si chiama quello dove c'è la vagista, su in via Lomberto, che si riconnette in via in piazza Porrino. Non ho idea. Adesso sono quasi in viale Trento, dai. Ma non chiedo lui che sia corrido. Però lui sta chiedendo. A me? A me. A me. Capo, il distributore di benzina, quello dove avevano fatto anche la popolare una rapina. E vicino a via Pirino mi sembra, no? Come si chiama? Boh. Capito, sì, dai, allora, già hai capito anche tu. Certo, lo so, ma scusate, se ti dico una cosa, già giù, buon acqua. Adesso sto passando, sto all'incrocio fra il Trento, dove c'è via il Trento, per salire su poi al coso, al via Lotto. Sì, ho capito. Ecco, la macchina l'ha messa a posto, dai. No, è sempre stata a posto, perché? Quindi c'è quella macchina tua. Positivo. Mi si è la fermata. Capo, l'ho messa a posto, certo che l'ho messa a posto, ma già dalla sera l'avevo messa a posto, chiamato il meccanico, ci ha messo soldi e sangue. Guarda perché sono rimasto tutto quel tempo, l'ho dovuta spingere, l'ho dovuta mettere da parte, ma non la potevo lasciare dove era, perché era giù in viale San Francesco, non in viale San Francesco, in viale delle Croci. Non la lascio lì, figurati, con la cappotta morbida me la facevano occhio e caramella. Si è fatto anche pagare, poi non era niente, soltanto che io non lo vedevo, c'era scollegato un filo. Vabbè, era tutta roba. Il filo dell'immobilizzare, come si chiama, immobilizzare del coso, dell'antipurto. Vabbè, allora è tutta roba. La roba è un far di palle, perché si è fatto pagare questo miserabile. Senti, che vuol dire, alle 7 non si fa pagare. Hai ragione anche tu. E hai ragione anche tu. E vedrai che già ti zoppica anche tu. Vedrai. Spero io, perché lì non si tratta di un filo, ma lì si tratta di morire. Oh, zoppica in buon senso, nel senso che ti la chiave ti va a presa. E meno che la mia chiave non è. Ma non ce l'ha, sì che ce l'ha la chiave. Negativo, non ho chiave in quella macchina, vedi? Che non lo so nemmeno, non ho nemmeno chiave. C'è solo un pulsante per la messa in moto. Ah, non hai chiave, sì, però c'hai. Cosa c'hai? Qualcosa in tasca, la chiave di vicinanza, cioè sei vicino e te la accende tramite un pulsante. Il trasponder. Ma Roger, capo. Quindi però devi la chiave. Di essere. No, non è una distanza, devi essere all'interno della macchina, sei sicuro che al perimetro della macchina non funziona più. E invece quando te ne monti iniziare a parlarti, a chiamarti, se stai uscendo, che non c'è più il trasponder in macchina. Ma quando lo tiri fuori pochi centimetri dal finestrino e già non lo vedi più. Cioè lo vedi, ma ti dice di portare la chiave dentro. Ma e come mai la volta che l'ho accesa, che tu eri fuori dalla macchina, ci sono riuscito lo stesso? E ce l'hai accesa perché c'erano le chiavi dentro il giubbotto dentro la macchina. Cava, non dentro la macchina, ma quindi non hanno un alloggio le chiavi dentro, cioè non infili da qualche parte le chiavi. Ma la BMW lo infilava in un rocchetto, faceva poco, se lo portava dentro e poi spingevi il freno e il pulsante per la messa in moto, poi uguale identico pure il in casa la chiave direttamente, solamente in caso che lui si incasini, perché la roba potrebbe capitare che si incasini, che perde memoria, che giochi, entri, spegni, allora c'è un alloggio nascosto sotto il cuscotto, la metti dentro, si porta dentro la chiave, ce la rimemorizza e poi te la restituisce. È sempre comunque una presa per il culo del fatto che c'è una tecnologia, una cosa ipertecnologica con una cosa obsoleta e hanno una distanza di un metro, che sono il motore e l'abitacolo. Scusate che è una bassa. Ok. Aspetto, sono qui. Luca Riola, no? Vieni avanti. Allora, per me sempre qua il segnale, ma soprattutto la radio che c'è la bassa, capito? Se avessi la radio un po' più alta non ci sarebbero problemi. Perché quando c'è il segnale basso, c'è un microfonino che magari è normale, lo sai meglio di me, riesce a metterci le mie più 4, sicuramente va bene. Tu Cariolo? Gianni? Io sono qua, mi avete dimenticato. Luca, beh, cosa stai combinando? Sempre imprenditore, sì. Luca Flipper. E sicuramente sta mettendo il microfono. Luca, cazzo, mi stavo guardando quel sito di Grode. È insegnante. Come ci trattano, bobo. Quale sito? E metti autopsia di una donna. Vanno a giocare, non ho voglia di, te l'ho buttato lì il portatile anche se è acceso, ma non ho voglia di filmare un... E che cosa c'è? La fanno a PST. Chi? Praticamente fanno un'autopsia su una donna, tolgono tutti gli organi, fuga. E qual è la cosa allucinante? Che fa in nausea, una cosa del genere. Ma quelli su YouTube? No, io l'ho messo sul motore di ricerca su Google. Autopsia di una donna? Sì. Stanotte non lo vedo, che sta al lavoro. Devi avere fegato. Quello non ci fu più, me lo butto da giovane. Cappagato. Chi è rimasto? Luca Manicomi, avanti. Dove c'è Luca? Mi è rimasto Grotte, Grudino, lascia il telefonino. Sta telefonando. Ascolta, la radio va bene, si trova, non è cambiato niente, però non mi sbaglio già. Oh, va bene, va bene. Anche troppo forte. Cosa ti stavo dicendo? Il telefono di Grotte sembra centrale la SIP, ogni 5 secondi lo chiama. Qualcuno su un altro canale a fianco ci abbiamo. C'è Pollicina ci si. Tutti due al telefono sono. Ho sentito la stessa di tratto, io avevo anche l'impressione. Non lo so, Pollicina. Ma ci deve essere. Perché? Aspetta, magari non riprenderò, ma riprenderei. Ma dalla macchina, perché era con Pollicina in macchina? Non te lo so dire questo, se c'era anche Pollicina. Ma magari da casa sta ascoltando. A perdere tempo. Lo segue. Ma me lo lasciate in pace, vai. Ho visto. Brodino. Sento, dottor Gianni. Bar agricola, allora. Deve di uscire. Manco per le scatole, sono stanco morto. Sono a pizzi qua. Proprio oggi che c'era l'offerta ci hanno ammazzato. Questo negozio nuovo quando faceva la Mercedes. Già c'era l'autore. Era pieno. Poi c'era la Mercedes, che avanti. Ti ammazzo la Sartoria, c'è un negozio nuovo, un negozio è quello. Non so io che cosa sia. So che dovevo aprire ma non ci sono ancora andato. Ci sono andato, dovevo prendere i pezzi, i cambi per il motore ed era pieno. C'era la gente facendo la fila fuori. E poi dice che non ci sono soldi, no? Sì, ma non devi guardare la gente che fa la fila, devi guardare quando escono, quanto butti hanno in mano. Beh, molti vanno anche per curiosità, è vero. Ma fare la fila penso che ci sia qualche prodotto in offerta e penso come minimo. E tu ricordati una cosa, te, come quello più professionale, tu quando vedi tutto dici quanto c'era un po' di gente in giro e poi si lamenta, non guardare quello, tanto c'è una fila, devi guardare quando esco e contare le buste e ti rendi conto. Sono d'accordo con te, però uno non fa la fila per non comprare nulla perché non ha interesse. Non penso che uno faccia la fila solo per curiosità, io non lo farei. Per me non siamo tutti uguali, eh. Quello è vero, anche quello è vero, io se c'ho un interesse su un prodotto o una cosa la fila la faccio, ma se non devo comprare nulla non mi voglio fare la via, no? Mio amore che mia leggera. non va, quando c'è poca gente, chiamano gente e rompere lo stesso, si bisogna fare la fila. Non è così, Barraghi. Hai ragione, c'ha ragione. No, tu ci porti il gregge lì. C'è la precedenza. Ma io non ti ho capito. Ci porti il gregge. Sì, sì. Le pecore sono come le persone, le palle. C'è la pecora che salta il muro e tutte le altre ha preso, così sono le persone. Sì. Siamo mucchiando tutte insieme, quando sono gli incendi sono vigliacche, si mettono tutte ammucchiate, non scappano, stanno ferme e ferme. Sei lì una bestia. Sì, tengo le gambe in aria. Così. Cucada. Non so cosa sto facendo adesso, sarà platanona. Se hai le gambe in aria vuol dire che te la stavi violentando. Credo no. Senti, mi sono con Fabrizio, c'è anche Fabrizio, Barraghi. Ma c'era Fabrizio? Buonasera, Mario Agricola, ben sentito. E con tu, anche tu hai sentito, stasera che ti ascolto, già tu hai sentito. Avete stato parlando con Gianni. Oh, passo io 10 minuti in quel Rixi che sto controllando una cosa e poi riprendo, là. Al limite anche per i saluti. Riprendi già. Ciao, comunque ben sentito nuovamente, Barraghi. Bene. Ciao Fabrizio, ciao. Un buon Corrix ascolto, vai. Io mi sono abbastanza. Ma dove era? Vai stasera. Chiusa. E allora, attore. Finito. No, io finito. E tu, e allora ragazzi? Se la guarda il codino l'altra volta, perché se volessi fare la cosa era una macchina. Chi? Tu? Noto che c'è in via 4 novembre, ci ha messo il veloce in macchina, adesso me lo voglio mettere anche io con voce. Perché con questo cazzo di cellulare a rispondere quando stai guidando da fastidio. Ma tu non sei di cellulare, capito la voce delle burle. Che c'è il cellulare? Capito, ma sei, va bene, c'è il cellulare, però non puoi rispondere quando stai guidando. Io puoi rispondere, metti la voce. Se lo senti, come faccio io? Io c'ho il portacellulare, quando mi chiamano, metto la risposta, e poi metto la voce, così sento tutta la macchina. Però mettere quello che si attacca alla radio proprio, perché c'era con un'altra macchina già usavo già. Quello lì è una cosa più sofisticata. Mio cognato che c'è Mercedes, invece di usarlo usa il cellulare, sembra all'orecchio. E quando va becca non gli mettono la multa. Guarda che se l'ha beccata mia sorella la multa. E per poco non me la becco anch'io, me l'ho voluto bene. Cellulare senza cintura. Cavolo, 5 punti. No, i carabinieri mi hanno affiancato, mi hanno messo i lampeggianti, mi seguito. Io sono andato piano piano, mi hanno affiancato, hanno abbassato il finestrino, mi hanno detto, non funziona così, si accosti per cortesia. Cazzo, ho detto, fottito sono. Invece mi hanno voluto bene. Mentre come mai era col cellulare senza cinture? Guarda, era appena partito, va. Lo so. Ma non va bene, ha detto guarda mi ha chiamato la ditta e stiamo rispondendo, sì ma i punti della patente non li tolgono la ditta, li tolgono lì, in più le cinture non le ha detto la ditta di non metterle. Cazzo, vabbè ho sbagliato, cosa devo fare, non posso, se devo pagare pago e buonanotte, non c'è problema. Mi ha detto va per questa volta, visto che la patente la usa per lavoro. Cazzo, ne ha gana che ho avuto. Quello lì, è stato fortunato, era l'altra volta mi ero perseguitato con le sirene, quella volta lì però erano i vigili urbani. Visto è dove c'è la Grimby? Sì. Praticamente c'è la semaforo rosso. E io sono andato, ho detto giro a destra e poi esco dall'altra parte che risulta verde, no, dalla parte che uscire dalla griglia. Ho attraversato quelle due corsie, ho guardato, prima ero attraversato. Stavo salendo verso il suo e vedo la macchina di vigili urbani stava scendendo dalla Sassari. siccome mi ha visto mentre le scivere bovi con la paletta e mi ha fermato ha detto il produttore ho detto Lupino e allora e lo sai che ho fatto 3 infrazioni perché è passato su 3 corsie sopra 3 corsie non poteva fare e io gli ho detto vabbè ho sbagliato cosa devo fare no? purtroppo sono errori che si pagano e cioè, sì, ma non è questione di pagare, è questione che se riusciva una macchina da lì si sarebbe ammazzato lì e avrebbe ammazzato gli altri e io gli ho detto vabbè no, ma ho guardato bene, eccetera, eccetera, vabbè, va. La prossima volta non faccio più la fessina del genere. Parami. Avevo fretta, non lo sai, la stessa di fretta, pur scendere, a casa, un casino. E non so quanta gente lo fa, ui. Let's go. ZTL. Zona ZTL. Significa che sei quelli che sono residenti, così. Vuol dire zona traffico limitato. C'erano microchip. Microchip. Perché è passato si può avere funzione? No, io sono passato con mio cugino da una settimana da 6 anni. Ehi, vabbè, magari per quel giorno lì sarà buona. No, se mi avrò avuto la punta, ce l'ho passato, però non so se farà. Era la prima volta, vogliamo... C'era un amico che era fuori di più, ma era adesso, tranquillo. Sotto. Io dico per farti fiffare. Ma la zona del quartiere non so se l'hanno approvata o no ancora, eh. Ma perché ci sono le telecamere, non so se si fai fatto un cazzo. La telecamera c'è stata sempre, vero Umberto, perché riprende tutta la prefettura, la provincia, capito? Ah, per quello non so se... Le telecamere sono praticamente all'interno, ci sono i poliziotti dove c'è un centro di osservazione con i monitor e controllano che tutto stia andando bene nel perimetro della provincia. Non è così. Correggimi che mi fa solo piacere. ed è anche una domanda di esame quella lì. Punto, correggimi. E te lo spiego con calma, è un calcolo logaritmico che bisogna fare. Io sui blog ho sempre letto così, ma se è pronto a correggermi, non c'è problema, anzi. Anzi. Allora, si parla di dB, non si parla, si parla di dB, capito? Devi parlare, si parla di dB, ogni 3 dB è tutta la storia del cavo, del coso, eccetera, eccetera, eccetera. Non è così, è un calcolo logaritmico, una volta che arrivi a 100 watt, dopo per aumentare di 3 dB devi andare a 100, per aumentare di 6 dB devi averne... Lo ce ne devo averne 400, altri 3 ce ne devo averne 800, è logaritmico il calcolo, quindi non è proprio così. E tu logaritmi non hai fatto, capito? Io li ho fatti ai geometri, ma tu all'industriale no? Già li ho fatti, ma ti dice il calcolo, praticamente ogni 3 dB devi sempre, per avere 3 dB devi sempre raddoppiare, capito, sulla potenza che hai, dopo un certo wattaggio. Ma io ho detto, per esempio ho detto quello, cioè ho detto che ogni volta che vuoi aumentare di un punto dB devi raddoppiare la potenza. Ogni punto dB devi raddoppiare la potenza, guarda, adesso non c'ho il libro, perché non me la ricordo esattamente la formula, c'era una formula bene precisa, la verità adesso non me la ricordo. Attenzione, Sierra Sierra. Avanti. Ehi, capo. Ciao Fabrizio, allora una cortesia, che sto provando una questioncina che non la provavo già da un po', mi dai un piccolo rapporto? Vieni avanti. Ok, prova un attimino, prova radio, prova radio, prova radio. La fase da un 7 euro di 6, un 7 euro di 8, la radio va bene. Ok, va bene, va bene, allora già funziona ancora. Gianni, doppio room, ciao Crote. Ciao Sandro. Ciao Sandro, mi hai sentito? Questo mi sto riavvitando il baracchino, che mi si era staccato o mi sarebbe il cavo. Riprendo io. Allora, due cose. Primo, riavvita il baracchino e lascialo, quei 30 watt lasciali sempre fissi lì, perché ti migliora anche la radio, quindi lasciali fissi, che per lì va benissimo, non di più, va benissimo, anche la radio ti migliora, quindi secondo me ti conviene proprio lasciarli fissi. Come accendi 30 watt, tanto non credo che ti interessi i consumi. Poi un'altra cosa, Sandro, come mi ascolti oggi? Ci hai in confronto a stasera? Allora, Fabri, sono in condizioni di ricezione, vi ricevo molto bassi perché non sto utilizzando un'antenna, ma al momento sto usando il filo da stendere, capito? Quindi vi ricevo bassi. Ho capito, ma va bene, perché avevo problemi all'apparecchio che ho messo a posto, e quindi il controllo che tu subito ti sei accorto che avevo problemi, che mi hai scambiato per Grode, e volevo vedere se mi scambiavi nuovamente per occhi di gatto, giusto per quello. Ok, allora aspetta un attimino, perché qua devo accordare. Ok. Ok, allora vediamo un attimino. Ok, vedi un po' in questo passaggio. No, va bene Santiago, io ce lo disbiego, però stai uscendo, sei più stabile come segnale. Ok, ha aumentato qualcosa? Sì, Santiago, 7, vai verso gli 8,5. Ok, dai. Comunque da parte tua ti ascolto bene, da oggi pomeriggio da quando hai avuto quell'equipo hai migliorato moltissimo, diciamo che sei tornato alla normalità. Adesso logicamente il segnale è relativo da parte mia, perché sono con l'amplificatore all'antenna, perché sennò non riesco a tirarvi fuori. Va bene, Gianni. Ciao Sandro, buonasera. Buonasera. Sì, poca voglia stasera, ce ne sa. un po' di stanchezza, un bel po', mal di testa, ui, sono tutto troncato. Ok, vabbè, già, è da capire, dopo una giornata di lavoro è normale, va bene, Crote. Crote sparisce ogni volta, cazzo. Minchia, sempre, sempre così, mi sparisce mentre parla, cacca, è inutile, sarà caduto dentro col cacciavite dentro l'apparecchio. No, io vi saluto perché non è arrivata quasi l'ora, e niente, vai alle prossime, adesso faccio 2 minuti di ascolto per i saluti e poi vado in querretti da parte mia. Riprendi Gianni per i saluti. Aspetta un attimino, non è che sono caduto, ma sono infettato, la condizione è quella di lasciare un po' di bianco per far entrare qualcuno. Comunque mi confermi che questa modulazione va bene? Ora. Allora, ti ho già detto che tu stai diventando permaloso come qualcuno che conosco, cacca, e forse cacca, ti sta succedendo qualche problema a te. Niente, già stai facendo bene, ti ho veramente detto, secondo me da lì, non so che baracchino stai usando, però con quel microfono, col proxel dovrebbe essere, no? Con quel microfono, quel baracchino che stai usando e quell'amplificatorino, secondo me rilasci quello e stai facendo benissimo. Altrettanto te ne voglio, benissimo. Sandro, vieni avanti, perdonami, davvero, stavo lasciando un attimino di bianco perché aveva sembrato di sentire un becco. Comunque, avanti. Ok, dai. Va bene. Da parte mia già vi ascolto, già riesco a tirarmi fuori. Ok. Un attimino che torno alla normalità, dai. Era giusto una prova che volevo fare, ero già da un po' che non lo usavo. Ma fai, come io saluto a Fabrizio, se fa correttino, lo saluto e lo seguo, dai. Io rimango in correttino perché stasera proprio sono stanchissimo, non mi ho voglia. Ma vi ascolto, sappiate che vi ascolto. Stasera quindi non possiamo parlare male. A proposito, beh, quel link me lo puoi dare che voglio vederla con la corsa. No, negativo, non c'ero il link. Me l'ha mandato su Facebook e l'ho guardato. Adesso devo andare a prenderlo e non ce l'ho perché è tutto spento. Non c'è problema. Ti è rimasto quindi a rotta. Il canale è mio. La comune. E due. E due senza sé. Vero, già chi è? Vado a fare carica batteria anche io, ci sentiamo dopo se coincide. Ciao, ci sentiamo, wow. Rimasto. Puro. Cari, fratelli e figli e sorelli. Quando tornate a casa, Sandro. Oh yeah, dimmi Gianni. Però che stanno le nuvole. Aspetta un po'. Che torniamo alla normalità, dai. Crode stasera è in voga. Crode, cosa ti succede? Crode! Negativo, sono contento che si stia rianimando la frequenza. Beh, per forza tu sei arrivato, tocca restare a me. Andate a mangiare, aiuto, sentiamo la roba, ciao. Ciao, chissà se ci trovi. Sì, Gianpaolo, non è entrato stasera. Sì, è entrato, infatti stava provando l'S9, e infatti poi non lo so, abbiamo fatto alcune prove, però logicamente essendo vicino era così, infatti voleva sentire un po' a te, per vedere un po', diciamo, come si comportava, dai. Questa a che ora? Che ho pensato? Ma non lo so, sono state intorno alle 6, 6 e mezza forse. Perché io stavo lavorando a quell'ora, se no volentieri. Io gli avevo chiesto di farmelo sentire come usciva. Ehi, capa. No, no, vabbè, io logicamente già lo sentivo bene, diciamo, però sai, cioè, essendo tu così troppo vicini, diciamo, non è che puoi dare una valutazione, capito? Infatti gli ho detto, magari se senti Gianni, giusto per fare, diciamo, qualche passaggio che lui lo conosce meglio, capito? Perché logicamente questo qui è completamente diverso dall'S9, capito? Beh, comunque l'S9 va molto bene, molto bene. Io ne ho avuto due addirittura di S9, tutti e due nuovi, comprati nuovi. Niente internet, niente, l'ho comprati dal coso, da tecnocomunicazione. E anche questo che c'ho adesso, non ho tanto, l'ho comprato io. Ho capito. Infatti poi mi stava dicendo questo tastino che ha dietro per... dovrebbe essere per la stazionaria, non so adesso per il controllo, perché adesso vabbè, questo per dire ce li ho tutti sul pannello frontale, per dire. No, io guardo, quel tastino non l'ho mai toccato. Comunque ce l'ho l'istruzione in italiano, vabbè, l'S980 è più o meno come l'S9, c'è la stessa funzione. Naturalmente il 980 è un po' più potente, ma per il resto è uguale anche come estetica. Sì, come estetica magari sì, poi magari cambierà qualcosa, diciamo, di componentistica, qualcosa di... Infatti io non li ho potuto provare nessuna dritta, perché diciamo questo è completamente diverso dall'S9, capito? Sia come estetica, sia come funzionalità, diciamo, è tutta un'altra cosa, dai. Ma lui l'ha preso nuovo. Ma mi sembra di sì. Come l'istruzione non ce l'ha? Beh, se ha preso nuovo penso che ce le abbia le istruzioni. Perché io ce l'ho in italiano le istruzioni. Ehi, vabbè, lo sai così, primo impatto normale che c'è qualcosa sempre che devi cercare di capire, capito? Ma con le istruzioni in italiano piano piano si riesce al dunque, capito? No, il problema è, diciamo, adesso non so sull'S9, almeno su questo, per dire, c'è il jack a 4 sulla parte destra, però niente da fare, come per dire, a peccagli o mic amplificato da base, non ne vuol sapere, nulla da fare, l'unico il suo mic originale, il palmare, e boh. Allora, per metterci un microfono amplificato le devi chiudere il topo grado, e devi abbassare tutta la cosa della modulazione, non puoi usare le funzionalità come sono lì, è inutile che abbia un apparecchio che abbia molte funzioni quando poi non le puoi usare, questo è il mio parere. Quindi è preferibile tenere un microfono che tra l'altro non è un dinamico, ma è un precompresso o qualcosa del genere, non è proprio normale. Visto che c'è il top down e una serie di... come si chiama? Diciamo di amplificazione. Sì, il topogramma, diciamo, non è altro che un aumento, diciamo, della modulazione, dell'amplificazione, e basta. aperta, diciamo, non è che sia, no, ma diciamo adesso per dire su questo ho provato in 10.000 modi, nulla da fare, addirittura guarda, tenere a zero il Mikey Gain suo, eliminando tutti quelli che possano agire sulla modulazione, diciamo, e così via, non c'è verso, perché infatti poi ho chiesto a chi di dovere, gli ho detto guarda, quello dice no, dice tieni il suo e boh, basta, è nato così. Però posso dargli una dritta, prova a abbassare il power. Abbassare? Il power, qui ce l'ha il power, quello per la potenza. Il power, diciamo, per l'aumento dei watt. Esatto, abbassa quello lì, e abbassa anche amplificazione microfonica. Ma tu mi parli di power e di mic gain? Io ho amplificazione microfonica, su mic. Sì, mic. E mic sarebbe questo, guarda. Ora, prova. Ma, ok, ecco. Sarebbe questo. Poi logicamente quello, il pomello dei watt, del power. Esatto, sono quelle due cose che gli danno, che gli fanno innescare. Io ho provato, va bene, ma devi eliminare tutto il coso, a me non mi va, sinceramente, se ho preso l'apparecchio così per usarlo del tutto, per tutte le sue funzionalità, se no se per eliminare mi prendevo un apparecchio normale e attaccavo l'amplificato. Esatto. No, perché le stesse parole che mi stai dicendo tu me le ha dette chi di dovere. Mi ha detto, dice, guarda, se volevi ti prendevi un apparato normale di base e niente. Diciamo che questo jack a 4, chiamiamola opzionale, chiamiamola quello che vuoi, però in effetti per aggiungerlo mic da base amplificato, che cosa? Devi eliminare all'interno la scheda, diciamo, il doppio modulatore che lui ha dentro, dai. Comunque tu è meno, l'ho visto con l'apparecchio. Diciamo che è totalmente diverso dall'S9, capito? Ah, vabbè, comunque è bello lo stesso. L'S9 è un tipo di apparecchio, ma quello lì, diciamo che con le stesse funzionalità e la sua bellezza, la sua presenza. Ah sì, no, infatti come estetica, noi parliamo come estetica, diciamo, e così via, è completamente diverso. Vabbè, a parte tutto che sembra un albero di Natale, tutti i suoi pomelli illuminati, diciamo, così via. Ecco perché stasera lì a Giampaolo non ho potuto dargli una dritta, perché logicamente non lo conosco. Quando non si senta bene, poi non sa che c'è delle regolazioni, anche se si sposta non le rimetti così. Vabbè, dai, piano piano, dai. Vabbè, poi gli ho chiesto se sul mic palmare ci aveva per cambiare i canali, per dire, mi ha detto di no, per dire adesso, per dire questo ce l'ha, ma per dire qualche opzione, diciamo, qualcosa in più, diciamo, come lo scanner, come memorie, adesso l'S9 non lo so se queste cose ce l'ha. Ehi, io sono qua. Anche io. No, non sembra che voglia entrare nessuno. Mi sa che ti lascio, perché mi sta venendo la biocco proprio da crepare, guarda. Questa voce non è che aiuta. Ma sai, ci sentiamo, dai. stavo bene. Stavo a buonanotte, buon colletico, non lo farai. Non lo farai. Credo sia un po' di amici. Ci sentiamo, buonanotte a tutti. Ok, dai, ciao. Ce la sentiamo tutte le prossime, dai. Come si dice? Buon 144, come si suol dire. Ciao Gianni, ciao. Ciao, ci sentiamo. arrivare a bomba. Tu come mi stai ascoltando? Ma è l'apparato, ah me l'hai già detto quello lì, ma è l'apparato vecchio che avevi o hai qualcos'altro? Ho capito, è un apparato degli anni 80 se non sbaglio. Saggio e parole, tutto è l'antenna, e intanto guarda l'apparato è possibile che magari è una brutta modulazione, però se esce con 4 watt comunque, è al pari di un altro apparato buono che esce sempre con 4 watt. Tutto sta a avere una buona posizione d'antenna, un'antenna ben smetrata e dopodiché un buon cavo di calata che non abbia problemi. E lì esce una bomba. Con 4 watt, se stai uscendo con 4 watt è molto difficile che crei problemi, soprattutto se l'antenna loro non ha amplificatore a manetta, ma tutto da vedere. Ma come mai questa ripresa? Spiegami. Difficilmente si mettono a fare gli sciocchini, come si suol dire, per quanto anche lì un po' si stanno sporcando le cose, non so se hai sentito, anche lì ci sono sovramodulazioni importanti, gente che accorda sugli altri, un po' così. Dai, si sta sporcando anche lì. Siamo qua in 27. Beh no, è normale che è un periodo d'assestamento, è un periodo dove è normale che avvengano queste cose, diciamo è biologica la cosa, dai. Perdonami un attimino di bianco per me, sono un attimino in ascolto che sto finendo di saldare una cosa, riprendo subito. Alla salva. Barchetto. Salva, salva. Ma perché questa assenza? Guarda che si nota, eh. Che? La mancanza, perché? Guarda, minimo era un 10 giorni che non ci sentivamo. E di più anche. Ma se mi è permesso chiederti. Impegnati siamo, cercando di far qualcosa. No, non mi può che far piacere, nel senso che sicuramente se sei assente per impegni di lavoro vuol dire che la macchina sta girando e va bene così. Assolutamente, tutto bene per il resto? Diciamo sì, per il resto va bene. Riguardo la macchina di lavoro, come sa, non c'è niente, no, con Giulia. Mi sa che non c'è niente da tutte le parti, non c'è niente da tutte le parti, ma perché sono tutti quanti a buccia castretta, perché abbiamo capito che questo governo di ragionieri adesso deve recuperare soldi e ci farà il buco a canna di grillo a tutti. La cosa, questa è la democrazia, nel senso che non ci sono né ricchi né poveri, la prendiamo tutti quanti nel QSO senza nessun problema. Ah, quello è vero. Ascolta, salsiccia te la serve fatta in casa. Se fatta in casa potrebbe servirmene, o comunque potrei consigliarla a qualcuno che mi ha chiesto anche da poco se conoscevo qualcuno che... fresca o stagionata? No, ho saccato domenica. Di fresca, quanto la stai dando? 20. A 18 a te. Oggi è 18 al chilo. Adesso telefono, adesso no perché è troppo tardi, però domani mattina telefono un amico e ti faccio sapere. Non hai problemi come numero di come quantità? Fatto che vuoi tu. 1 chilo, 2 chili, 3 chili, 4 chili, 5 chili. Quella che ti serve, mi fai sapere, prima possibile, perché sennò io sto già. Ho fatto l'elenco dei clienti che la vogliono, capito? Sto segnando i chili che devo dare, capito? Che ne abbiamo fatto intorno alle 60 chili, ecco, siamo lì. Ma come è fatta, normale o con dita o finocchietto? No, non c'è il finocchietto lì, sono altre spezie, normale, senza il finocchietto. Io non sono un amante della salsiccia, però ti ripeto, chiedo a questa persona che se l'aveva trovata, perché mi aveva chiesto se conoscevo qualcuno che la faceva, ti parlo di 2 mesi fa me l'aveva chiesto, quindi non so se l'abbia già trovata, nel caso contrario lo indirizzo a te, non c'è problema. Ma quindi quando l'hai fatta? L'ho fatta sabato e saccata domenica, capito? Adesso mi ha sgocciolato, è tornato e sta iniziando la sua segazione, capito? Arrivo. Orientativamente ogni gioco di salsiccia quanto pesa? Non ne hai fatto di varie misure oppure standard? La misura è standard, qualcuna più grossa, qualcuna più grossa, più lunga, qualcuna più corta, ma siamo lì, dai. Diciamo che ogni 2 ciubi si parla il chilo. In un chilo 2 ciubi, 2 salsicce. No, ottimo, assolutamente sì. dai, ti faccio sapere. Scusami un attimino, sto salutando questa cosa e ci sentiamo fra un attimo. Vai, vai. Buon fine.